9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore. A proposito di bella sotto braccio a parlare d'amore, scusate, leggete oggi sui giornali che vi hanno alzato la detrazione più alta per i figli. Mi sentite dire da sempre che la curva demografica è il più grande paese, il più grande problema del paese. Sì, sì, sì, è il più grande problema del paese, perché descrive un'Italia senza alcuna idea di sé, senza alcuna proiezione di futuro. Però cosa fanno? Alzano, era 800-900 euro a seconda che siamo sopra e sotto i tre anni, li alzano a 900 euro, quello da 800, e da 900 euro a 1080, però praticamente l'aumento è solo per quelli che hanno 10.000 o entro i 15.000 euro di reddito l'anno. Il problema demografico, perdonate, non è, ripeto, non è un problema che ha a che vedere con i redditi di ciascuno, è un problema che vale per tutti nel paese, non è che il costo di un figlio è diverso a seconda del reddito del padre. Quindi questa briciola, ripeto, sottolineo 50 volte briciola, è una roba buttata lì come i peggiori governi lucra voti della Prima Repubblica. Mi dispiace, monti o non monti, è sempre lo stesso difetto. Tentare di illudervi con delle briciole su problemi che richiederebbero ben altre misure. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no, no, per vedere se la gente poi piange davvero e capire che per tutti è una cosa normale. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! E a proposito, perché dopo gli esodati, ma hanno torto o ha ragione chi dice che è una truffa intollerabile quella dello Stato che chiede i ricongiungimenti onerosi per i versamenti contributivi fatti alle diverse casse e ai diversi fondi? Norma voluta da Giulio Tremonti, tanto per essere chiari, è uno scandalo. Su questo i 900.000 italiani che si trovano a dover pagare pacchi di migliaia di euro per questo, in un paese civile avrebbero modi ordinamentali per mettere lo Stato al posto giusto. Due punti, alla sbarra! Di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Mi aspettavo qualcuno che da Torino reagisse alla veemenza con cui ieri ho denunciato lo scandalo della Giunta Rossa che regala 350.000 metri quadrati alla Fiat, cioè alla Juventus, a 58 centesimi al metro quadrato vicino allo stadio. E invece no, non un solo fiato. E allora lo ripeto, scandalo, ladri, juventini, ladri. Mi dispiace, 58 centesimi al metro quadrato sono uno scandalo che grida vendetta. Sto parlando dell'area della Continassa, vicino all'area del nuovo stadio della Juventus, una roba sul quale vergogna assoluta chi in Consiglio Comunale di Torino ha fatto questo regalo immondo. Piuttosto bisogna dargli ai poveri. Oh, Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. Allora, andiamo al tema del giorno invece. Quindi assumiamo un tono più confacente a quello del confronto civile, dell'approfondimento delle nostre trasmissioni di questa rete. Oggi è San Giocondo, quindi un augurio a tutti coloro che si chiamano così. Devo dire che per i colleghi giornalisti, solidarietà, cosa volete che vi dica? Io non sono molto sorpreso che il Parlamento, uno dei tanti colpi di coda che adesso inizieranno a moltiplicarsi, visto che andiamo verso il voto, quindi si disallineano le convergenze politiche che si celebrano alla luce del sole, e nel segreto dell'urna ovviamente i parlamentari votano un po' seguendo la pancia, e quindi il carcere per la diffamazione ai giornalisti relativa al famoso caso Saluzzi eccetera eccetera, votata ieri con emendamenti a sorpresa che hanno raccolto secondo me nel segreto dell'urna i voti di tutti i politici, non mi sorprendono più di tanto, per così dire. Non mi sorprende più di tanto la lunga coda poi, perdonate, qui Oscar Giannetto che parla, visto che la storpiatura del mio cognome continuerà ad accompagnarmi, e ci rido sopra, abbiamo riso anche con Cruciani ieri pomeriggio per questo, ma devo dire che vedere tutto questo cancan mediatico, complimenti al PD organizzato sulle primarie di un paese che non voterà più con un meccanismo maggioritario, da quello che capisco, e che vota con criteri in cui si chiede a voi cittadini di andare a sottoscrivere un documento in cui vi dovete impegnare con la vostra faccia e la vostra firma a vincere il PD, chiunque le vinca, a votare per il PD chiunque le vinta queste primarie, cioè con una richiesta di fedeltà che neanche, voglio dire, ai tempi della Controriforma Santa Romana Chiesa faceva intimando il rogo a chi non si impegnava a stare con la vita con la Chiesa senza discuterne in alcun modo i dettami. Beh, devo ammettere che anche questo però mi stupisce da parte dei miei colleghi, perché capite che quando si sta smontando ogni meccanismo maggioritario, e quindi in realtà non ci sono più candidati premier, perché si va a mani libere coi vecchi partiti in Parlamento per consentire l'allineamento PD-UDC e magari altri anche del mondo della società civile, che a me non convince, perché francamente è lo schieramento che ha la sua bandiera con una sopra, c'è una cosa che c'è scritto patrimoniale, io sono contrario. Ma detto questo, vedere come i media celebrano la rutilanza di queste di questa lizza con i cavalieri, ma quando non c'è più il maggioritario, a me fa veramente grattare la testa, perché credo che i media e la stampa antepongano anche lì colore e tifo rispetto alla sostanza. Bisognerebbe dire: signori, i partiti stanno andando a votare, vi chiedono le mani libere, immaginate voi se è meglio. E poi criticano pure chi pensa di votare Grillo. Beh, il voto a Grillo, devo dire la verità, è conseguenza di tutto questo. Allora, andiamo al tema del giorno, va, che è meglio, perché sennò io continuo a divagare. Qual è il tema del giorno? Il tema del giorno è il tentativo concreto di iniziare a ridiscutere con misure che tengano conto del nostro ordinamento, dello scassatissimo titolo quinto che tanti danni ha arrecato alla possibilità di un serio federalismo nel nostro paese, perché ha fatto, ve lo ricordo, quello votato a maggioranza dalla sinistra, e per il quale abbiamo avuto l'esplosione dei conflitti di competenza nel nostro ordinamento per via della politiche concorrenti e delle competenze date anche su alcune poche politiche che secondo me dovrebbero essere di esclusiva carattere nazionale, un po' come le infrastrutture e l'energia, e da una parte ha significato questo il titolo quinto, dall'altro in realtà non ha affatto impedito, oltre all'esplosione in realtà dei costi della politica, non ha fatto impedito che poi lo Stato centrale ramazzasse dai comuni tutto quello che poteva in questi anni, certo consentendogli poi le addizionali locali, ma però impedendo vere attuazioni di un'autonomia politica e di un accrescimento della quota di autonomia finanziaria. Detto questo, c'è chi inizia a ragionare di mettersi alle spalle 18 anni di chiacchiere, purtroppo, e di tentativi reiteratamente portati avanti con tenacia, ma poi smantellati. Pensate solo alla riforma della Costituzione, la devolution e tutta la prima parte del centrodestra. E quindi ragioniamo di dei disegni di legge che ieri sono stati presentati, illustrati in Veneto dal presidente della Giunta Veneta, e di cui abbiamo con noi l'estensore dal punto di vista dello studio, dell'approfondimento. E perché l'ho voluto qua? L'ho voluto qua perché lo considero una delle persone che in questi anni di travagliato e muscolare confronto sui temi del federalismo e del decentramento ha tentato di anteporre sempre numeri, criteri, alle giostre inutili parolaie della politica. Sto parlando del professor Luca Antonini, che è ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova, che è stato presidente della commissione tecnica, che ha dato supporto sempre ai decreti di attuazione del federalismo. Buongiorno professor Antonini. Buongiorno Oscar, grazie. E abbiamo con noi anche Carlo Lottieri, che insegna dottrina dello Stato all'Università di Siena, è ricercatore dell'Istituto Bruno Leoni, e che anche lui, diciamo, con più criticità e più radicalismo, come vogliamo dire, più fedeltà al principio, in questi anni ha fatto da controcanto agli incerti passi avanti e indietro da Gambaro sul tema del federalismo. Buongiorno e grazie a Carlo Lottieri. Buongiorno. Allora, io tento di spiegare rapidissimamente di che si tratta e poi passo la parola al professor Antonini per spiegarci meglio. Allora, ci sono tre articoli del titolo quinto della Costituzione. C'è il 116, molto trascurato, che parla del regionalismo differenziato, cioè come si può andare ulteriormente avanti a dare competenze in questo ordinamento. Poi c'è il 118, che riguarda la sussidiarietà, il 119, il federalismo fiscale della Costituzione. Cosa consente il 116? Con una procedura concordata tra singole regioni e il Parlamento, consente di individuare meglio le aree del federalismo differenziato. Quindi no secessione, purtroppo non ancora macroregioni, io imboccherei quella strada, ma a oggi consente di stendere dei disegni di legge statali, ma di iniziativa regionali, coi quali dare più concretezza alle materie nelle quali le regioni possono articolare le proprie competenze, nel rispetto dell'attuale dettato del titolo quinto, ma andando più avanti e potendolo fare in maniera differenziata, come potete immaginare. A questo punto, se c'è l'accordo poi in Parlamento, che deve votare con maggioranza assoluta, tra regione regione. Allora, questi tre disegni di legge appunto riguardano: uno, l'attuazione dell'articolo 116; un secondo, l'attuazione dell'articolo 118. Che cosa vuol dire? Vuol dire che attribuisce, regionalizza numerose funzioni che oggi sono ancora statali e le invece le dà alla regione proponente. E poi il terzo è una proposta che sostanzialmente rende possibile la territorialità in materia previdenziale, proprio la cosa di cui parlavamo prima. Voi direte: che senso ha alla fine della legislatura iniziare a parlare di queste cose? Ha il senso comunque di individuare un percorso sul quale, secondo me, comincerà a ragionare nella prossima legislatura. Piace soprattutto sottolineare che in questi testi, per esempio, ci sono faccio alcuni esempi perché le materie sono tante, ma pensare di regionalizzare la materia delle sovrintendenze, per esempio, cioè di snellire moltissimo, come avviene già in Trentino Alto Adige, la procedura delle valutazioni di impatto ambientale o le procedure del benestare per quello che riguarda i vincoli delle sovrintendenze sui beni culturali e ambientali rispetto alla centralizzazione nazionale di procedure come la valutazione di impatto. Questa per me sarebbe una ottima cosa. Tentare di regionalizzare, per esempio, le questioni che riguardano la protezione civile, il governo del territorio, secondo me sarebbe una ottima cosa. Non c'entra niente con la cosa secessione sì o secessione no. Il problema è quello di avere modelli anche magari diversi, ma in cui chi è più efficiente, chi è più organizzato, fa valere meglio il principio della sussidiarietà, della vicinanza al territorio. Dopodiché, qui il tema che si pone col secondo disegno di legge è anche quello, col secondo e con il terzo, è quello, per esempio, di far rimanere nelle regioni, e in Veneto in questo particolare caso, i fondi oggi amministrati centralmente. Sapete il meccanismo che abbiamo utilizzato per il TFR e per il passaggio oltre una certa soglia di impresa a un fondo presso l'INPS. Qui si chiede: ma perché non lasciarcelo a un fondo regionale, in maniera che noi possiamo investirlo? I fondi del TFR, come sapete, è denaro accantonato che spetta ai lavoratori, ma nel frattempo, invece che farcelo sequestrare dall'INPS a livello nazionale, siamo un fondo a livello regionale per poter fare magari investimenti con rendimenti finanziari più elevati, da retrocedere poi ai lavoratori quando gli ridiamo la quota a parte, ci chiedono di averla, ma nel frattempo noi avremo risorse da investire nella realizzazione di infrastrutture. Questo si propone di fare la stessa cosa per un fondo regionale per la sicurezza nei luoghi del lavoro, invece che per il fondo nazionale. istituire un fondo regionale anche per la cassa integrazione guadagni e fare il welfare di prossimità invece che un unico welfare con le risorse nazionali. Quindi, come potete capire da questi esempi, è un tentativo per dire non smontiamo l'unitarietà del paese, però su molti capitoli con l'articolo 116 della Costituzione possiamo intanto costruire devoluzioni e attribuzioni molto più avanzate con quote di risorse molto più elevate. In questo modo, come è evidente, si diminuirebbe quel deficit tra ciò che i veneti, i lombardi in altre regioni che sono in attivo fiscale danno tra imposte e contributi e quello che poi in media ricevono come spesa pubblica e trasferimenti pro capite. Allora, ho sintetizzato in maniera non tecnica, professor Antonini, ci dica lei invece come risponde all'obiezione di chi dice ma com'è a questo punto nasce un disegno come questo, ma sarebbe davvero attuabile con la Costituzione attuale? Che cosa vuol dire rispetto ai grandi tentativi che abbiamo alle spalle, la devolution e il federalismo fiscale, entrambi i quali poi alla fine hanno finito, sia pure per ragioni diverse, di essere abbandonati? Che risponde, professor Antonini? Beh, innanzitutto la ringrazio Oscar perché ha dato un quadro molto netto e siamo in perfetta sintonia, ha capito veramente qual è il cuore di questa proposta. Questa è l'attuazione della Costituzione, cioè dell'articolo 116 e dell'articolo 118, rimasti gravemente inattuati perché ha vinto da noi sempre una logica idiota della uniformità, cioè tutti vanno trattati nello stesso modo. Questo doveva permettere l'eguaglianza e in realtà ha prodotto egualitarismo e ha prodotto enorme differenze, soprattutto ha penalizzato i virtuosi. Cioè noi abbiamo un contesto dove per esempio sulla sanità in Italia abbiamo il meglio e il peggio del mondo, però tassiamo tutti uguali, così sfasciamo i modelli che funzionano e poi dopo quando c'è qualcuno che va sotto nei modelli che non funzionano lo aiutiamo coi fondi di tutti. L'ultimo, mi permetta la divagazione, ma è questo fondo per salvare Napoli dal dissesto dove si mettono 2 miliardi di euro, di cui 500 milioni vengono presi dal fondo per anticipare i pagamenti della pubblica amministrazione e si evita la procedura prevista dal federalismo fiscale che determinerebbe il dissesto e quindi il commissariamento, cioè tu mandi via chi amministra e metti lì un commissario come è stato fatto per Taranto e Taranto grazie alla croce del dissesto è un esterno che ha gestito i conti in ordine. Catania, che è stata invece ripianata con 140 milioni di euro, oggi ha un buco di circa un miliardo perché se tu eviti il dissesto i conti non si risistemano. Allora i virtuosi nel nostro sistema sono sistematicamente penalizzati. Qui la logica che noi si chiede di applicare è una logica di razionalità economica. Se tu hai un territorio che funziona, è inutile che mantieni i controlli statali che inceppano quella burocrazia regionale che funziona, per esempio le sovrintendenze, come lei giustamente diceva. Ma qui in Veneto hai l'80% del territorio che è sottoposto a vincolo paesaggistico, perché per la legge, le leggi in vigore, tu basta che stai a 150 metri da un fosso e il tuo terreno diventa sottoposto al vincolo paesaggistico, vuol dire che la sovrintendenza ti può imporre come devi fare le tapparelle, cosa successa realmente a sottoscritto, cioè ti impone non puoi fare la tapparella anta unica, devi fare la tapparella anta doppia perché piace di più così al sovrintendente. Questa è la realtà. Poi dopo tu scopri che nella provincia di Salerno ci sono circa 1 milione di particelle non accatastate. Cioè, scusa, 200.000 particelle non accatastate, quindi vuol dire un numero di case fantasma spaventoso, no? Quindi hai questo dualismo inaccettabile che blocca la realtà virtuosa. Noi abbiamo calcolato che se tu applicassi a livello nazionale gli standard di amministrazione che ha il Veneto, si risparmierebbero ogni anno 28 miliardi di euro, perché qui è un livello di rapporto dirigenti impiegati regionali, popolazione che è assolutamente virtuoso, che non ha paragone con quello che c'è in Campania, in Calabria, in Sicilia. E ci sarebbero allora, anche 520.000 dipendenti pubblici in meno. E ci sarebbero 520.000 dipendenti pubblici in meno. Allora, se abbiamo una realtà virtuosa, perché non dobbiamo valorizzarla? Cioè togliamo le competenze statali che qui diventano un ostacolo per la burocrazia e potenziamola là dove lo Stato drammaticamente manca, nelle regioni canaglia, che sappiamo tutti quali sono. Allora qui si dice attuiamo la Costituzione, il 116 mai attuato, perché il titolo quinto è stato un disastro totale, perché appunto ha decentrato più competenze del Canada, ma non ha messo gli strumenti che servivano per gestirlo, per esempio un Senato federale. Vai a dire ai tedeschi che puoi gestire il federalismo senza un Senato federale, ti ritorno dietro. Ma il titolo quinto ha fatto l'uniformità, è stato applicato in modo uniforme, togliamo tutti i controlli in Calabria, in Campania, eccetera, e da tutti, trattando tutti nello stesso modo. Questo è stato devastante. C'era un articolo che era razionale, che era il 116, dice differenziamo da territorio a territorio, chi l'autonomia la esercita in modo virtuoso lo premiamo, chi invece, per esempio, secondo me alla Sicilia bisognerebbe togliere l'autonomia speciale. Non puoi lasciare l'autonomia speciale a una regione che dal 1946 ha uno statuto che è inattuato e che spende 3 milioni di euro al giorno per interessi, tanto quanto ha speso, dati COPAF, 3 milioni in un anno per le ferrovie. E se tu devi prendere un treno da Palermo a Catania ci metti 5 ore. Cioè, perché si è riempita di dipendenti, ha usato l'autonomia speciale per una politica assistenziale sul personale che è stata assolutamente devastante, e lì mantieni l'autonomia speciale, non ha senso. Certo. Allora qui l'idea è applichiamo, allora, se questo è un territorio virtuoso, è logica di razionalità economica che io dia potenzi quella amministrazione, è inutile che duplico i controlli, i fondi per le imprese, ma perché non permetto a gestirli direttamente all'amministrazione Vento, risparmio tempo e abbatto la burocrazia. Questo è un modo per abbattere la sovrintendenza, la regionalizzo, come ha fatto il Trentino Alto Adige, dove funziona regolarmente e non hai appunto ostacoli per chi vuole appunto realizzare qualcosa, come invece succede in Veneto, perché dipendi dal gusto estetico tante volte dei burocrati di turno. Dal gusto estetico del burocrate di turno, questa è la realtà. E finalmente arrivano i messaggi degli juventini. Non ce l'ho con voi, sapete, se la vostra società riesce abilmente, come molte volte ha fatto in 100 anni di storia, ad avere questo bel trasferimento pubblico gratis, dico che ha buoni dirigenti. Io me la prendo con gli amministratori pubblici della città rossa, Torino, quella che tanto fa scontri, poi col fatto che la Fiat di qua, di là, poi quando si tratta di fargli un bel regalone, come sempre, di corsa, in ginocchio, c'era anche nel PD chi non era d'accordo, ma niente, hanno proceduto a farlo, la continassa alla Juventus, 58 centesimi, perché non li danno anche a noi terreni a 58 centesimi al metro quadrato? Li rifiutereste o li prendereste? Certo che li prendereste, quindi amici juventini, non ce l'ho con voi, ma contro il proliferare di cose di questo genere. Sapete, mentre sui giornali, come è giusto, voi, i casi Fiorito, i casi Lusi, i casi Belsito, i casi Vincenzo Maruccio, questo che si fotteva un milione di euro per l'Italia dei Valori e poi si giocava a videopoker, li trovate. Poi i casi dei grandi conflitti di interessi, dei grandi favori alle quotate, alle società pubbliche, alle società calcistiche, quelli li trovate meno, perché su quelli la politica fa scambio, perché è uno scambio vergognoso quello fatto dal PD alla Juventus a Torino, ma quelli non li trovate, e per di più voi tifate come se fosse lo sport. Cosa c'entra lo sport? Qui c'è un problema evidente, quei valori delle aree immobiliari gridano vendetta, poi dopodiché fate bene a tifare Juventus se vi piace, io tifo Torino, ma non è questo il punto, il problema non c'entra nulla il tifo, c'entra il criterio col quale denaro pubblico, valori pubblici che erano stati spesi là per fare un'arena che poi non è possibile, ma il Comune ha speso più di 6 milioni, malgrado tutto questo, poi ha fatto una gara per fare un cartodromo, c'è chi l'ha vinta, e adesso con un prezzo da regalo alla Juventus va tutto. Continuerò a ripeterlo perché mi sembra, e non c'è una riga, sulla stampa di oggi non c'è una riga su questa roba. Va bene. Allora, professor Lottieri, che dice di questi disegni di legge per tentare di attuare il 116 della Costituzione così com'è, partendo dal presupposto che per il momento i tentativi di cambiare le grandi architetture, di fare le macro regioni come i Länder, di concentrare tutto nei comuni, magari accorpandole, elevando le province, però queste cose non funzionano fino a questo momento. Lei che dice? Ma confesso di essere molto perplesso, capisco le buone intenzioni. Però mi pare che fondamentalmente un progetto di questo tipo non offra una risposta a quella che la domanda che un numero crescente di veneti stanno ponendo. Cioè in Veneto, a mio parere, oggi cresce una domanda di referendum sull'indipendenza, bisogna essere molto chiari su questo. Si chiede all'Italia di avere la stessa civiltà che hanno avuto taluni paesi anglosassoni come il Canada, in cui due volte hanno fatto votare gli abitanti del Quebec, oppure la Gran Bretagna, dove si è già deciso che nel 2014 si voterà per l'indipendenza della Scozia. E questa è cronaca comunque, perché nei prossimi giorni, a seguito dell'iniziativa di un movimento che si chiama Indipendenza Veneta, che è un piccolo movimento, ma l'iniziativa è stata sottoscritta da 42 dei 60 consiglieri regionali del Veneto, si terrà un consiglio regionale straordinario esattamente sull'ipotesi di un referendum per l'indipendenza. Perché qual è il problema? Che la perestroica arriva sempre troppo tardi. E il problema del Veneto, come della Lombardia peraltro e di altre poche realtà per le regioni del nord, è che c'è un residuo fiscale enorme e queste riforme non toccano, come dire, la carne, no? Guardano l'osso ma non la carne. Si parla per il Veneto di un residuo tra i 16 e i 20 miliardi all'anno. Cosa vuol dire residuo fiscale? La differenza tra quanto i veneti pagano in tasse e il costo, non la qualità, lasciamo perdere, dei servizi che ricevono. Stiamo parlando grosso modo di una cifra tra i 12 e i 15 mila euro a famiglia di reddito in meno. Ora, finché non c'è la crisi queste cose sono sopportate, ma quando c'è la crisi queste cose diventano insopportabili. Ecco perché nei Paesi Baschi nei giorni scorsi si è avuta una maggioranza di 2/3 per i partiti indipendentisti, ecco perché in Catalogna il 25 di questo mese si voterà e si sa già che ci sarà una sorta di referendum di fatto per l'indipendenza. Ecco perché anche in Veneto questa domanda cresce. D'altro canto, una questione di democrazia, li chiedono di poter votare su cose che interessano e non sulle sciocchezze, cioè vogliono votare sulla possibilità di costruire una realtà indipendente, tenere i loro soldi, evitare di finanziare un baraccone assistenziale che è, come dire, improduttivo per tutti. E credo che di fronte, come dire, a questa richiesta che sta conquistando, come dire, io non sono veneto ma è una realtà che conosco abbastanza bene, che sta conquistando strati sempre più ampi della popolazione, credo che arrivare con queste piccole riforme sia ormai troppo tardi. Lei prima diceva 18 anni, no, non sono 18 anni, sono addirittura 32. La Lega Veneta nasce nel 1980. Hai ragione. E non è successo in questi anni nulla, anzi le cose sono peggiorate. Quindi la frustrazione, voglio dire, in Veneto è altissima. E di fronte a un'Europa che sta totalmente rimodulandosi, loro dicono: ma perché l'Italia deve essere meno civile della Gran Bretagna? E a queste domande bisogna dare risposta. Allora, questa è l'ipotesi, secondo me fondata, che alle prossime elezioni in Veneto, alle prossime elezioni politiche, nell'evaporazione del PDL, perché questo secondo me avviene in generale in Italia e nel nord ancora di più, e a una questione che c'è aperta della tenuta del voto leghista, in Veneto la parte del veronese terrà di più rispetto al resto, poi bisogna vedere che fine fa, c'è un voto venetista che rispetto a percentuali contenuti nelle ultime regionali, perché erano veramente pochissimi punti, possa tornare a essere catalizzatore di consensi su posizioni come queste che ci ha illustrato il professor Carlo Lottieri. Che ne pensa di questo il direttore del Gazzettino, quindi quotidiano di Venezia e del Veneto, Roberto Papetti, che ci ha raggiunto? Buongiorno a tutti. Ma guardate, io credo questo, che se ieri la giunta regionale del Veneto avesse proposto un disegno di legge, o anzi un decreto di legge che proponeva l'indipendenza del Veneto, si sarebbe immediatamente scatenato un pandemonio, ecco i soliti leghisti, eccetera, eccetera. La giunta del Veneto ha fatto una scelta diversa, che è un po' simile, se vogliamo, alla scelta che ha fatto il governo sulle province. Io sono per l'abolizione delle province, però considero positivo il fatto che un governo finalmente, dopo tanto chiacchierare, abbia comunque avviato un processo di ridefinizione dell'assetto delle province. Quello che ha fatto la giunta regionale ieri va nella stessa linea. Ha cercato di individuare e di dare una risposta a una serie di domande che oggi sono presenti in modo crescente, su questo il professor Lottieri ha assolutamente ragione, nel Veneto. Alle ragioni che lui sottolineava io ne aggiungo un'altra. Oggi non solo c'è, diciamo, questo anelito indipendentista che si sta rafforzando, anche se poi i sondaggi attribuiscono a queste volontà delle percentuali ancora molto risicate, però c'è anche il problema della disgregazione territoriale del Veneto. Oggi ci sono quasi una ventina di comuni del Veneto che hanno chiesto di passare alle regioni a statuto speciale vicine, cioè il Trentino Alto Adige da una parte, il Friuli dall'altra. E non sono solo comuni bellunesi, ci sono anche comuni veneziani, ci sono comuni vicentini, sono comuni sparsi su tutto il territorio. Questo pone un problema politico, cioè di dare al Veneto delle risposte. Il tentativo della giunta regionale veneta ieri è stato quello di dare una risposta che si colloca nell'alveo delle competenze costituzionali. Certo, si può anche chiedere l'indipendenza, però per chiedere l'indipendenza in questo momento non ci sono gli strumenti giuridici per farlo. Quindi la giunta veneta ha fatto una scelta, per così dire, che si colloca in questo alveo. La filosofia l'ha spiegata benissimo il professor Antonini prima. Io andrei anche oltre. Io credo che questo sia l'inizio di un confronto tra il Veneto e lo Stato italiano, diciamo così, l'apertura di una vertenza veneta nell'ambito della quale si possono anche ipotizzare delle logiche di scambio. Io per esempio ritengo che il problema delle grandi infrastrutture non sia da assegnare alle regioni, ma allo Stato centrale. A sua volta lo Stato centrale deve però concedere alle regioni virtuose come il Veneto dei poteri che in questo momento non ha. Prima si citava il caso della sovrintendenza, per far capire che cosa vuol dire questo. C'è un episodio di 2 anni fa, lo racconto rapidamente. Una delegazione di deputati e di esponenti politici veneti del Trentino Alto Adige, che si occupa di questioni montane, è andato a fare un giro di perlustrazione sulle montagne di confine. Ora c'è una malga storica, di importanza storica, che si colloca proprio in una zona di montagna tra il confine Veneto e Trentino. È stato fatto un lungo iter per una ristrutturazione che ne mantenesse le caratteristiche originali. Ora, 2 anni fa questa delegazione si trovò di fronte a questa situazione. La metà del Trentino Alto Adige era completamente ristrutturata e agibile. La metà che era nel territorio del Veneto era ancora allo stato di rustico. Questo perché? Perché il Trentino Alto Adige aveva ottenuto dalla sua sovrintendenza tutti i permessi. Invece il Veneto aspettava ancora le autorizzazioni dal potere centrale. Anche questi sono problemi. E dal mio punto di vista il provvedimento, i 3 disegni di legge che sono stati emanati ieri vanno in questa direzione. Dopodiché se si può ottenere di più e se è giusto ottenere di più, discutiamone, parliamone, certo, perché già questo è un punto di partenza. Comunque questo apre la vertenza veneta e quindi apre un confronto tra lo Stato e la Regione Veneta, e non escluderei che si crei quella sorta di club di regioni virtuose che sono la Lombardia, ma sono anche l'Emilia Romagna, che si possano porre nei confronti dello Stato italiano, chiedendo che in virtù dei risultati ottenuti, non in virtù di una fiducia ipotetica, loro possano gestire delle competenze che oggi sono demandate con livelli di efficienza discutibili allo Stato centrale. Credi all'ipotesi, direttore, di che significa anche un cambio di passo, la Lega, per così dire, un abbandono del linguaggio dell'epoca bossiana, un ritorno a un linguaggio più, come devo dire, ragionevolmente concreto, che non rinuncia alle cose ottenibili ma che antepone percorsi meno solo demagogici a quelli della concretezza? C'è anche questo aspetto secondo te, direttore? Allora, diciamo che in questo momento la Lega è sicuramente attraversata da tensioni e da pulsioni molto forti, però certamente la scelta che è stata fatta ieri, ed è una scelta fortemente voluta dal governatore della regione, si colloca in questa logica, cioè di un movimento che ricerca, nell'ambito di ciò che la legge consente, le leggi di questo paese, e nell'ambito di un'unità nazionale, cerca il raggiungimento della massima autonomia possibile sulla base dei risultati, e ovviamente con un rapporto di confronto con lo Stato assolutamente trasparente. Sì, questo, da questo punto di vista mi sembra un passo in avanti. Anche di una strategia politica. Allora, oggi, se volete darvi un'idea poi di come i giornali la pensano politicamente, basta che diate una occhiata in prima pagina a chi sui giornali dà o meno evidenza alla reazione degli operai del Sulcis, furiosi con Passera e Barca, costretti poi i ministri Passera e Barca ad andarsene via in aereo. A seconda del rilievo che c'è questa notizia in prima, o se non c'è, capirete come la pensano i giornali sulle ipotesi di prosecuzione del governo Monti. Ok, allora, mentre c'è il nostro Jim Morrison, sentiamo rapidissimamente 2 ascoltatori e poi passiamo alle opinioni finali di Antonini e Lottieri. Allora, cominciamo con Lorenzo, che chiama da Treviso. Prego, Lorenzo. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo. Sicuramente il disegno di legge che ha proposto la Giunta regionale Veneto non potrà avere seguito, perché verrà sicuramente bocciata dalla Cassa del Sud. Solo il referendum dell'indipendenza veneta, che chiede che il Veneto sia libero di esprimersi se vuole rimanere ancora alle dipendenze di Roma, può avere effetto. Quindi lei è la linea, appunto, espressa dal professor Rottieri, e dice: guardate che si sta ricreando, proprio per l'apertura del quadro politico, un terreno per cui l'indipendentismo tornerà ad avere consensi. Vediamo, perché questo, secondo me, io credo anch'io che i voti venatisti saliranno rispetto a quelli delle ultime regionali. Sentiamo Livia da Milano, prego. Livia. Buongiorno dottor Giannino. Senta, io ho ascoltato poco fa un concetto del suo ospite, sì, di cui non ricordo. Professor troppo. Antonini. Perfetto. Ecco, sarò poco precisa, ma proprio il concetto non l'ho capito. Parlava di una costruzione che avrebbe dovuto distare non so quanti metri da un certo confine. Parlava dei vincoli che scattano con l'obbligo di parere della sovrintendenza, su come si devono fare anche gli arredi esterni delle case in presenza di vicinanze a corsi d'acqua, cose di questo genere qua, 150 metri, sì. E lei voleva sapere di più. Beh, allora facciamo una cosa, Livia, facciamo rispondere direttamente al professor Antonini, così ci illustra meglio, perché credo che sia capitato anche a lui in particolare per un suo immobile. E cosa risponde il professor Antonini anche a chi dice: ma è una via troppo pratica questa qua, troppo arrendevole, bisogna ripartire invece a fare con il referendum indipendentisti? Ma guarda Oscar, io penso che non bisogna prendere in giro la gente. Allora, il referendum non si può fare, è stato tentato già una volta e la Corte Costituzionale ha detto che non si può fare. Quindi non puoi farlo con questo nostro ordinamento, un referendum in cui chiedono l'indipendenza. Quindi mi sembra una cosa assolutamente demagogica, che prende in giro la gente, perché non te lo fanno fare, giuridicamente non lo puoi fare, l'ha già detto la Corte Costituzionale una volta. Allora mi sembra che queste cose, cioè, un conto è fare demagogia, come diceva lei all'inizio, un conto è avanzare proposte concrete che vogliono un po' raddrizzare il sistema. Noi in questo modo chiediamo che sia premiato chi è virtuoso con un percorso concreto che magari non daranno mai, ma poi, come diceva Papetti, incominciare a creare un club delle regioni virtuose, che allora può creare una forza politica, magari anche per far cadere questo, lo ripeto, fondo per salvare la poltrona che viene a costare 2 miliardi di euro. Questo è un grandissimo costo della politica. Io andrei sul concreto. Beh, devo dire, 2 miliardi per la poltrona di De Magistris non è male, che sappiamo quantificare quanto costa la poltrona di De Magistris. Allora, questa è la linea di una concretezza ragionevole, però un bel po' di fondi che restano alle regioni più virtuose ci sarebbero. Che dice invece il professor Lottieri? Ma mi sento di rispondere solo così, che le istituzioni sono costruzioni umane e le costruzioni umane nascono e muoiono. E come disse Jefferson, le mani dei morti non possono vincolare l'esistenza dei vivi. Sante parole. E che il diritto pubblico, il diritto costituzionale è qualcosa, come dire, che viene spesso usato in un modo o nell'altro. Sappiamo ad esempio che il trattato di Osimo già ha un po' ignorato, ecco, l'articolo 5, l'inciso una indivisibile, che noi siamo in un contesto giuridico complesso legato all'Europa, che abbiamo affermato impegni internazionali sull'autodeterminazione dei popoli, eccetera, eccetera, e che quando 1,5 milioni di persone scendono in piazza a Barcellona, le carte, le costituzioni, eccetera, si cambiano, si lei dice. Perché alla fine la forza, come dire, è il consenso che nelle società come le nostre decide le cose. E se il consenso va in un certo modo, la perestroica è fuori tempo massimo e l'Oscar, lasciami passare la battuta, il rischio è di rallentare il declino e prolungare l'agonia. E qui ti volevo, per quello che mi riguarda, io sono per la concretezza di Luca Antonini, che ha tentato nello smarrimento del centrodestra sui contenuti concreti di dargli gambe. Però devo dire, Thomas Jefferson è l'esempio dal basso a ricordare a chi comanda, talvolta anche con tutta la durezza del caso, stop, perché comanda dal basso, la volontà sovrana sta solo nei cittadini. Mi piace. Appuntamento a domani, grazie a Lottieri Antonini.